Allora, una telefonata in diretta che corregge un po' quel racconto che avevo fatto della telefonata di poco fa, quindi siamo in diretta con la Tuscolana. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, dici un po' l'errore che ho fatto nel raccontare la cosa. Allora, qua l'ho chiesto precisi con la Radio Onda Rossa, perché insomma, noi vi ascoltiamo sempre, insomma. Allora, in realtà i blocchi sulla Tuscolana proseguono, nel senso noi dalle 11:30 che stiamo bloccando a soffietto, sostanzialmente, la Tuscolana, varie zone in corrispondenza delle varie metropolitane, sulle strisce è stata scelta questa forma di lotta molto tranquilla. Ogni tanto, dopo i vigili che sono molto tranquilli, arriva la polizia della Romanina, della Tor Vergata, del 10° Tuscolano, di Ricky Memphis e della Pandolfi, e viene un po' a fare così. Insomma, noi resistiamo quello che possiamo, a una certa ci sottraiamo e andiamo ad altre zone, sempre a fare lo stesso lavoro. Molta solidarietà da parte degli automobilisti, ecco, questa è importante, a parte qualcuno che sclera sempre, ma è il minimo, ma moltissima solidarietà da parte della gente qui della Tuscolana che si affaccia alle finestre, qualcuno scende. E voglio dire che non c'è solo l'Università Tor Vergata a bloccare le strade, a decidere questa forma, ma ci sono anche i liceali, alcuni della Maldi, del Pertini, anche del Gullace, del Lombardo Radice, che sono tutti istituti più o meno di periferia. E quindi, insomma, essendo noi abbastanza periferici come Ateneo, abbiamo deciso questa forma di lotta. E dobbiamo dire anche una cosa, però qui ci tengo a dirlo a nome di tutti quanti, anche per quello che è successo a Roma l'altra volta. Ci sono stati degli episodi molto brutti nei confronti dei manifestanti che non abbiamo approvato, e quindi abbiamo deciso di fare una cosa noi autogestita, auto-organizzata, anche partecipando all'altra assemblea con la Sapienza della Madre, ma abbiamo deciso stavolta che se non vengono prese delle posizioni ufficiali contro quello che è successo per Cristiano, che non è stato ricordato da nessun comunicato praticamente, per quello che ci riguarda, noi non parteciperemo a altre iniziative con chi si è reso responsabile di quel gesto, che non va addebitato solo a quel ragazzo che l'ha fatto, ma è molto più complesso. Speriamo si possa affrontare in assemblea questa decisione in maniera seria, pacifica, ma prendendo comunque delle decisioni. Questo ci teniamo a dirlo. Un saluto a Cristiano e a chi manifesta oggi, tutti quanti, in tutta Italia. Guarda, io ti ringrazio molto di questo appunto e un saluto intanto alla vostra iniziativa. Buon proseguimento di blocchi e casomai ci risentiamo tra un po'. Ciao. Ciao, grazie. Ciao.